Ad alta voce. Marco Foschi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Qualche mese dopo il suo arrivo, quando era già noto e apprezzato, Aureliano Triste stava cercando una casa per far venire sua madre e sua sorella Nubile, che non era figlia del colonnello, e mise gli occhi sul casone decrepito che sembrava abbandonato in un angolo della piazza. Chiese chi ne fosse il padrone. Qualcuno gli disse che era una casa di nessuno, dove in altri tempi era vissuta una vedova solitaria che si alimentava di terra, di calcinacci dei muri, e che nei suoi ultimi anni era stata vista solo due volte in strada, con un cappello di fiorellini artificiali e con un paio di scarpe color argento antico, mentre attraversava la piazza diretta verso l'ufficio postale per spedire lettere al vescovo. Gli dissero che la sua unica compagna era stata una serva perversa che ammazzava cani e gatti e quanti animali entravano in casa e buttava i cadaveri in mezzo alla strada per rompere i coglioni al villaggio col fetore della putrefazione. Era passato tanto tempo da quando il sole aveva mummificato la carcassa vuota dell'ultimo animale che tutti davano per scontato che la padrona di casa e la serva erano morte molto prima della fine delle guerre. E se la casa era ancora in piedi era perché negli ultimi anni non c'era stato un inverno rigido o un vento demolitore. Aureliano Triste diede una spallata alla porta principale e la cariata intelaiatura di legno crollò senza strepito in un silenzioso cataclisma di polvere e segatura di tarli. Aureliano Triste rimase sulla soglia aspettando che svanisse la nebbia e allora vide in mezzo alla sala la squallida donna vestita ancora con abiti del secolo anteriore, con pochi filamenti giallastri sul cranio nudo e con occhi grandi, ancora belli, nei quali si erano spente le ultime stelle della speranza e la pelle del viso screpolata dall'aridità della solitudine. Sbigottito per quella visione d'altro mondo, Aureliano Triste si rese appena conto che la donna gli puntava contro un'antiquata pistola da militare. «Mi scusi», mormorò. «Voglio affittare la casa», disse Aureliano Triste. Allora la donna alzò la pistola, mirando con mano ferma alla croce di cenere e alzò il grilletto con una determinazione inappellabile. «Se ne vada!» ordinò. Quella notte, durante la cena, Aureliano Triste raccontò l'episodio alla famiglia e Ursula pianse di costernazione. «Dio santo!» esclamò stringendosi la testa tra le mani. «È ancora viva!» Il tempo, le guerre, gli innumerevoli disastri quotidiani le avevano fatto dimenticare Rebecca. L'unica che non aveva cessato per un solo istante di sapere che era viva, a imputridirsi nella sua zuppa di larve, era l'implacabile e invecchiata Amaranta. Pensava a lei allo spuntare del giorno, quando il gelo del cuore la svegliava nel letto solitario, e pensava a lei quando si insaponava i seni appassiti e il ventre macilento, e quando si metteva le bianche sottane e i corpetti di Olanda, e quando si cambiava la benda nera della terribile espiazione. Sempre, in ogni ora, addormentata o sveglia, negli istanti più sublimi e in quelli più abietti, Amaranta pensava a Rebecca, perché la solitudine le aveva selezionato i ricordi e aveva incenerito gli intorpidenti mucchi di mondezza nostalgica che la vita aveva accumulato nel suo cuore e aveva purificato, magnificato e eternizzato gli altri, i più amari. Grazie a lei sapeva Remedios la Bella dell'esistenza di Rebecca. Aureliano II decise che bisognava portarla da loro e proteggerla, ma la sua buona intenzione fu frustrata dall'inflessibile intransigenza di Rebecca, alla quale erano stati necessari molti anni di sofferenza e di miseria per conquistare i privilegi della solitudine, e non era disposta a rinunciarvi in cambio di una vecchiaia turbata dai falsi incanti della misericordia. In febbraio, quando tornarono i 16 figli del colonnello Aureliano Buendía, ancora segnati con la croce di cenere, Aureliano Triste parlò loro di Rebecca. Nello strepito della baldoria e in mezza giornata restaurarono l'esterno della casa, cambiarono porte e finestre, dipinsero la facciata con colori vivaci, puntellarono le pareti e rovesciarono cemento nuovo sul pavimento, ma non ottennero l'autorizzazione di continuare le modifiche nell'interno. Rebecca non si affacciò nemmeno alla porta. Lasciò che terminassero l'alacre restauro, poi fece un calcolo dei costi e mandò loro tramite Argenida, la vecchia serva che era sempre con lei, una manciata di monete andate fuori corso fin dall'ultima guerra e che Rebecca continuava a credere buone. Fu allora che si seppe fino a che punto inconcepibile era giunta la sua affrancazione dal mondo, e si comprese che sarebbe stato impossibile riscattarla dalla sua caparbia clausura finché le fosse rimasto un soffio di vita. Nella seconda visita che fecero a Macondo i figli del colonnello Aureliano Buendía, un altro di loro, Aureliano Centeno, rimase a lavorare con Aureliano Triste. Era uno dei primi portati in casa per il battesimo e Ursula e Amaranta se lo ricordavano benissimo perché aveva fatto a pezzi in poche ore tutti gli oggetti rompibili che erano passati per le sue mani. Il tempo aveva moderato il suo primitivo impulso di crescita ed era un uomo di statura media, con la pelle butterata, ma il suo spaventoso potere di distruzione manuale era rimasto intatto. Però, in cambio di quel potere irrimediabile, esasperante perfino per lui stesso, possedeva una cordialità che suscitava la fiducia immediata e una stupenda capacità di lavoro. In poco tempo incrementò in modo tale la produzione di ghiaccio che saturò il mercato locale, e Aureliano Triste dovette pensare alla possibilità di estendere gli affari ad altri centri della palude. Fu allora che concepì il passo decisivo non soltanto per la modernizzazione della sua industria, ma per vincolare il villaggio al resto del mondo. «Bisogna far venire la ferrovia», disse. Fu la prima volta che si udì quella parola a Macondo. Davanti al disegno schizzato di Aureliano Triste sul tavolo, e che era diretto discendente degli schemi coi quali José Arcadio Buendía aveva illustrato il progetto della guerra solare, Ursula ebbe la conferma della sua impressione che il tempo stava girando in tondo. Ma al contrario di suo nonno, Aureliano Triste non perdeva né il sonno né l'appetito, né infastidiva nessuno con crisi di malumore, bensì concepiva i progetti più spropositati come possibilità immediate, elaborava calcoli razionali su costi e tempi e li portava a termine senza intermezzi di esasperazione. All'inizio dell'inverno, una donna, che era andata a lavare i panni al fiume nell'ora della calura, fece di corsa la via principale urlando in un allarmante stato di agitazione. «Arriva!» Trovò il fiato di spiegare. «Un affare spaventoso con una cucina che si strascina dietro un paese!» E contemporaneamente il villaggio fu scosso da un fischio, dalle risonanze spaventose e da un immane ansito. Ma quando si ripresero dal turbamento causato dai sibili e sbuffi, tutti gli abitanti scesero in strada e riconobbero Aureliano Triste che salutava con la mano dalla locomotiva, e incantati videro arrivare con 8 mesi di ritardo il primo treno inghirlandato di fiori. L'innocente treno giallo che tante incertezze e verità e tante lusinghe e sventure e tanti cambiamenti, calamità e nostalgie avrebbe in seguito portato a Macondo. Abbagliata da tali e tante meravigliose invenzioni, la gente di Macondo non sapeva da dove cominciare a sbalordirsi. Facevano le ore piccole in contemplazione delle pallide lampadine elettriche alimentate da un impianto che aveva portato a Aureliano Triste col secondo viaggio del treno e al cui ossessionante tum-tum costò tempo e fatica a abituarsi. Si indignò per le figure viventi che il prospero commerciante Don Bruno Crespi proiettava nel teatro dai botteghini a fauci di neone, perché un personaggio morto e sepolto in una pellicola, e per la mala sorte del quale si erano sparse lacrime di affiliazione, riappariva vivo e trasformato in arabo nella pellicola successiva. Qualcosa di simile successe coi grammofoni a cilindro che avevano portato le allegre matrone francesi in sostituzione degli antiquati organini e che tanto profondamente danneggiarono per qualche tempo gli interessi della banda musicale. Invece, quando qualcuno del villaggio ebbe occasione di verificare la cruda realtà del telefono installato nella stazione della ferrovia e che a causa della manovella era considerato una rudimentale versione del grammofono, persino i più increduli dovettero arrendersi. Era come se Dio avesse deciso di mettere alla prova ogni loro capacità di stupore e tenesse gli abitanti di Macondo in un perenne andirivieni tra l'entusiasmo e la delusione, tra il dubbio e la rivelazione, al punto che ormai nessuno poteva sapere con cognizione di causa dove erano i limiti della realtà. Era un intricato guazzabuglio di verità e di miraggi che convulsionò di impazienza lo spettro di José Arcadio Buendía sotto il castagno e lo costrinse a girare per tutta la casa anche in pieno giorno. Da quando la ferrovia era stata inaugurata ufficialmente e il treno cominciò ad arrivare con regolarità tutti i mercoledì alle 11 e si costruì la primitiva stazione di legno con una scrivania, il telefono e uno sportello per vendere i biglietti, si videro per le strade di Macondo uomini e donne che fingevano un contegno normale e corrente, ma che in realtà sembravano gente di circo. In un villaggio già scottato dalle lezioni di legioni, di zingari, non c'erano buone possibilità di avvenire per quegli equilibristi del commercio ambulante che offrivano con uguale spigliatezza vuoi una pentola a fischio, vuoi un regime di vita per salvar l'anima al settimo giorno. Ma tra quelli che si lasciavano convincere per inerzia e gli incauti di sempre, costoro facevano ottimi affari. Tra queste creature da fiera, con pantaloni da cavallerizzo e uose, caschi da esploratore, occhiali cerchiati di acciaio, occhi di topazio e pelle d'aragosta, uno dei tanti mercoledì arrivò a Macondo e venne a pranzo in casa il grassoccio e sorridente Mr. Herbert. Nessuno si accorse di lui a tavola finché non si mangiò il primo casco di banane. Aureliano II lo aveva incontrato per caso, mentre protestava in uno stentato spagnolo perché non c'era nemmeno una stanza libera nell'hotel di Jacob e, come usava fare frequentemente con molti forestieri, se l'era portato a casa. Lavorava in palloni frenati, che aveva portato per mezzo mondo facendo eccellenti affari, ma non era riuscito a innalzarne nessuno a Macondo, perché tutti consideravano quell'invenzione come un regresso dopo aver visto e provato le stuoie volanti degli zingari. E così aveva intenzione di andarsene col prossimo treno. Quando portarono in tavola il casco di banane tigrate che usavano a pendere nella sala da pranzo durante il pasto, staccò il primo frutto senza molto entusiasmo. Ma continuò a mangiare mentre parlava, assaporando, masticando più con introversione di savio che con godimento di buon gustaio, e quando finì il primo casco pregò che gliene portassero un altro. Allora tolse dalla cassetta di utensili che portava sempre con sé un piccolo astuccio di strumenti ottici. Con l'incredula oculatezza di un compratore di diamanti esaminò meticolosamente una banana, sezionando le sue parti con uno stiletto speciale, pesandole in un bilancino da farmacista e calcolandone il diametro con un calibro da armaiolo. Poi tolse dalla cassetta una serie di strumenti coi quali misurò la temperatura, il grado di umidità dell'atmosfera e l'intensità della luce. Fu una cerimonia così ingombrante che nessuno riuscì a mangiare tranquillamente, nell'attesa che Mr. Herbert emettesse finalmente un giudizio rivelatore, ma lui non disse nulla che permettesse di prevedere le sue intenzioni. Nei giorni seguenti lo si vide con un retino e un panierino occupato a cacciare farfalle nei dintorni del villaggio. Il mercoledì arrivò un gruppo di ingegneri, agronomi, idrologi, topografi e agrimensori che per parecchie settimane esplorarono gli stessi luoghi dove Mr. Herbert cacciava farfalle. Più tardi arrivò il signor Jack Brown in un vagone supplementare che agganciarono in coda al treno giallo e che era tutto laminato d'argento, con poltrone di velluto episcopale e tetto di vetro azzurrato. Nel vagone speciale arrivarono anche, roteanti intorno al signor Brown, i solenni avvocati vestiti di nero che in altri tempi avevano seguito dovunque il colonnello Aureliano Buendía, e ciò fece pensare alla gente che gli agronomi, gli idrologi, i topografi e gli agrimensori, così come Mr. Herbert coi suoi palloni frenati e le sue farfalle colorate e il signor Brown col suo mausoleo viaggiante e i suoi feroci cani tedeschi, avessero qualcosa a che vedere con la guerra. Non ci fu tuttavia molto tempo per pensarci, perché i sospettosi abitanti di Macondo cominciavano appena a domandarsi che accidente stava succedendo, che già il villaggio si era trasformato in un agglomerato di case di legno con tettoie di zinco, popolato da forestieri che arrivavano da mezzo mondo con il treno, non solo nelle vetture e sulle piattaforme, ma perfino sul tetto dei vagoni. I gringos, che più tardi fecero venire le loro mogli languide in abiti di mussolina e grandi cappelli di tulle, costruirono un villaggio a parte dall'altro lato della ferrovia, con strade bordate di palme, case con finestre protette da reticelle metalliche, tavolini bianchi sulle terrazze e ventilatori a pale appesi al soffitto e vasti prati azzurri con pavoni e coturnici. Il settore era limitato da una rete metallica, come una gigantesca capponaia elettrificata, che allo spuntare del giorno, nei freschi mesi estivi, s'anneriva di rondini bruciacchiate. Nessuno sapeva ancora che cosa cercassero, o se in realtà non erano altro che filantropi, e già avevano provocato uno scompiglio colossale, molto più perturbante di quello degli antichi zingari, ma meno transitorio e comprensibile. Dotati di risorse che in altri tempi erano state appannaggio della divina provvidenza, modificarono il regime delle piogge, affrettarono il ciclo dei raccolti e tolsero il fiume da dove era sempre stato e lo misero con le sue pietre bianche, le sue correnti gelate, all'altra estremità del paese, dietro il Camposanto. Fu in quella occasione che costruirono una fortezza di calcestruzzo sulla sbiadita tomba di José Arcadio per far sì che l'odore di polvere da sparo del cadavere non contaminasse le acque. Fu un'invasione così tumultuosa e imprevista che nei primi tempi era impossibile camminare per la strada a causa dell'intralcio dei mobili e dei bauli e del trambusto di carpenteria di coloro che mettevano su casa dovunque trovassero un terreno sgombro e senza dover chiedere il permesso a nessuno, e dello scandalo delle coppie che appendevano le loro amache tra i mandorli e facevano all'amore sotto i tendoni in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti. Tanti cambiamenti si verificarono in così poco tempo che, 8 mesi dopo la visita di Mr. Herbert, i vecchi abitanti di Macondo si levavano di buon'ora per esplorare il loro stesso villaggio. «Guardate un po' in che fottitura ci siamo cacciati!» usava dire allora il colonnello Aureliano Buendia, solo per aver invitato un gringo a mangiare banane. Aureliano II, invece, non stava nella pelle per la contentezza che gli procurava la valanga di forestieri. La casa si riempì improvvisamente di ospiti sconosciuti, di imbattibili sgavazzatori mondiali, e fu necessario aggiungere stanze da letto nel patio, allargare la sala da pranzo, sostituire il vecchio tavolo con un altro da 16, con un nuovo vasellame e servizi, e anche così si dovettero stabilire turni per mangiare. Fernanda dovette trangugiarsi i suoi scrupoli e servire come altrettanti re certi invitati della più perversa condizione che infangavano con gli stivali il porticato, urinavano in giardino e dovunque stendevano le loro stuoie per fare la siesta e parlavano senza far caso né a suscettibilità di dame né a smancerie di cavalieri. Amaranta si scandalizzò così tanto per l'invasione della plebe che tornò a mangiare in cucina come ai vecchi tempi. Il colonnello Aureliano Buendia, persuaso che la maggior parte di coloro che entravano nel laboratorio per salutarlo non lo facessero per simpatia o per stima, ma solo per la curiosità di conoscere una reliquia storica, un fossile da museo, decise di sbarazzarsi della stanza e non lo si rivide più, tranne in rarissime occasioni seduto sulla porta di strada. Ursula, invece, anche nell'epoca in cui già strascicava i piedi e camminava, tastando i muri, provava un'eccitazione puerile a ogni avvicinarsi dell'arrivo del treno. «Bisogna fare carne e pesce», ordinava alle 4 cuoche, che si affannavano per arrivare in tempo sotto la imperturbabile guida di Santa Sofia della Piedad. «Bisogna fare di tutto», insisteva, «perché non si sa mai che cosa vogliono mangiare i forestieri». Era trascorso più di un anno dalla visita di Mr. Herbert e l'unica cosa che si sapeva era che i gringos pensavano di seminare banani nella regione incantata che José Arcadio Buendía e i suoi uomini avevano attraversato cercando la strada delle grandi invenzioni. Altri 2 figli del colonnello Aureliano Buendía, con la loro croce di cenere in fronte, arrivarono trascinati da quell'eruzione vulcanica, giustificando la loro decisione con una frase che forse spiegava i motivi di tutti. «Noi siamo venuti», dissero, «perché vengono tutti».